sentiero che scurisce ogni tuo passo. Ma nulla appare scuro se non hai una luce accanto. È il sentiero che ti guida verso il basso e non lo senti. Ma la vita scorre limpida e tu sanguini dai denti. E io credo in me, anche se a volte la corrente tira, tira troppo forte. La marea fa pensare che Nettuno è triste solo come noi. E che non vuole essere un dio, ma vuole solo la sua dea. Ed a volte è la paura che ci porta a essere stupidi, a buttare via il talento. Spircio da una serratura che si affaccia su una stanza vuota e con l'oceano dentro. Ridisegno il mago che si impossessava, il caos che cerchi dentro che ti illumina la strada. E la ragione sorge quando non hai più niente da perdere, o quando fra l'iperbole non scordi la tua tana. Verso l'alto, 5 verso il basso, Abramo alla Gesù, Dio Maometto, Zoroastro, la fiducia regalata, sono briciole agli squali, sono fuochi artificiali nel tuo giorno più nefasto. Sono rimasto onesto e nonostante questo sono stato il resto, il più coglione in ogni senso, gioco a farmi il verso in ogni testo. Tanto ride bene chi sa ridere più spesso, e se a farlo non sia noi qua non saranno certo. Quattro depressi cronici sul palco di Sanremo, a volte piango sì, ma sorrido mentre tremo, prova a farlo tu, meno per meno più.